è uno sguardo ironico, lo so, quello che tu fai. No, non sono ancora andato via, come vedi già mi hai per te. È un pensiero semplice, lo sai, che in continuo ho. Così che non posso fuggir via, è il tuo cuore che io ho e avrò. Forse pioverà, e più in alto certo poi nevicherà, e non appena il sole si riaffaccerà, la cima apparirà bianca come se nessuno ci fosse stato mai. Forse pioverà, e più in alto vedrai che nevicherà, e non appena il sole poi riaffiorerà, la cima apparirà bianca come già nessuno aveva visto mai. Forse pioverà, e più in alto certo poi nevicherà, e non appena il sole si riaffaccerà, la cima apparirà bianca come se nessuno ci fosse stato mai. E forse pioverà, e più in alto vedrai che nevicherà, e non appena il sole poi riaffiorerà, la cima apparirà bianca come già nessuno aveva visto mai.